20 novembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 20 novembre. È passato un giorno della settimana e ho fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per essere buono come promisi l'altro giorno alla mamma. Ieri, dopo scuola, ho fatto i balocchi con Maria e l'ho trattata molto bene, adattandomi a giocare tutto il giorno con la sua bambola, che è molto bella, ma è anche parecchio noiosa. La bambola di Maria si chiama Flora ed è grande quasi quanto la sua padroncina. Ma l'unica cosa di divertente che abbia questa bambola è il movimento degli occhi, che quando è ritta stanno aperti e quando la si mette a diacere si chiudono. Io ho voluto capacitarmi di questa cosa e le ho fatto un buco nella testa dal quale ho potuto scoprire che il movimento era regolato da un meccanismo interno molto facile a capirsi. Infatti l'ho smontato e ho spiegato a Maria come stavano le cose ed ella si è interessata alla spiegazione. Ma dopo, quando ha visto che gli occhi della bambola erano rimasti storti e non si chiudevano più, si è messa a piangere come se le fosse accaduta una disgrazia sul serio. Come sono sciocche le bambine! La Maria ha fatto la spia al suo zio dell'affare della bambola e stasera l'avvocato Maralli mi ha detto: «Ma dunque tu, Giannino mio, ce l'hai proprio con gli occhi degli altri!» Però dopo un poco ha ripreso sorridendo: «Via via faremo accomodare gli occhi della bambola come si sono accomodati i miei!» E del resto, cara Maria, bisogna consolarsi nel pensare che tutte le disgrazie non vengono per nuocere. Guarda quella toccata a me, per esempio. Se Giannino non mi tirava una pistolettata in un occhio, io non sarei stato così pietosamente ospitato e assistito in questa casa, non avrei avuto modo forse di apprezzare tutta la bontà della mia Virginia e non sarei ora il più felice degli uomini. A queste parole tutti si sono commossi e Virginia mi ha abbracciato piangendo. In quel momento io avrei voluto dire tutto quello che mi passava nell'animo, ricordando le ingiustizie patite e facendo conoscere col fatto che i grandi hanno torto di perseguitare i ragazzi per ogni non nulla. Ma sono stato zitto perché ero commosso anch'io. Fine del 20 novembre.